la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon inizio di settimana. Se non mi avete già sentito stamattina, non siete, ma come molti di voi invece so che sanno, e sono indirettamente collegati sempre tutto il giorno o quasi a Radio 24, ma comunque grazie all'ascolto in diretta in podcast anche della versione di Oscar, da Oscar Giannino. E vi rinvio subito per i grandi temi della giornata. Focus Economia oggi è Simone Spezia e non Sebastiano Barisoni a condurlo, perché con lui si affronterà l'attesa di EMA. Aspettiamo nel pomeriggio di sapere qual è la giudicazione dell'autorità europea del farmaco e vediamo se Milano ce l'ha fatta, come tutti speriamo, in nome dell'Italia. Sentirete da lui gli sviluppi che sono la vera, incredibile ma straordinaria novità europea e mondiale, quella che mi ha trovato stanotte, perché dopo 12 anni ha battuto di poco la Thatcher, che ha governato 11 anni, ma dopo 12 anni l'era Merkel si avvia a finire. A sorpresa ieri l'FDP, stanotte a mezzanotte i liberali di FDP hanno buttato per aria al tavolo delle trattative il governo Giamaica con i verdi e i liberali, e CDU-CSU non ci sarà. I socialdemocratici hanno subito fatto capire che non sono disponibili, ma era chiaro, a riprendere un governo di coalizione a due. A questo punto la prospettiva del voto, ma sta al capo dello Stato, che è un socialdemocratico, l'ex ministro degli esteri Steinmeier, adesso vedere quale ipotesi di governi minoritari. Steinmeier sicuramente ci proverà, ma l'aria che tira in Germania è quella di scoprire improvvisamente che da grande forza stabilizzatrice d'Europa per 12 anni sono diventati instabili anch'essi. Consentitemi, è un po' anche l'effetto della legge proporzionale, e chissà cosa succede in Italia tra pochi mesi, ma intanto questa novità è una novità che avrà ripercussioni a catena in tutta Europa, vedrete, perché la chiusura di questi 12 anni, in ogni caso, mi pare molto improbabile che la Merkel si possa ricandidare se si va al voto, apre delle prospettive completamente diverse. I liberali hanno forzato e buttato per aria al tavolo sul tema degli immigrati, e quindi anche in Germania, come è avvenuto in Polonia, in Ungheria, in Austria, e come si vede nel dibattito pubblico anche italiano, i 2 milioni di profughi entrati tra il 2015 e il 2017 in Germania hanno reclamato il loro, per così dire, prezzo politico, perché la FDP ha rotto su questo punto, anche se in realtà si capiva che voleva rompere già da parecchio, anche sull'energia, sulla tassa a sostegno dell'Est. Vedremo che cosa succederà, ma anche per questo vi rinvio a Simone Spezia, che poi vi aggiornerà anche sulle banche e naturalmente sulla giornata di economia e finanza. Io invece oggi mi sono preso una puntata su un argomento all'atere, che sembra all'atere, ma a me non lo sembra per niente. Perché oggi, con lo spunto della giornata della povertà, ieri celebrata dalla Chiesa, indetta dal Pontefice, beh sì, ragioniamo un po' di povertà. E quindi iniziamo a sentire, comunque la pensiate, abbiate fede o meno, su un brevissimo brano dell'omelia che ieri ha tenuto Papa Francesco su questo tema a San Pietro. Poi vi dico subito, vi dirò un po' di cose, perché questa mattina fotografia della povertà a Milano, sto parlando di Milano, cioè la città fiera di rappresentare il meglio del meglio dell'economia italiana, un terzo delle multinazionali sono qua, il 23% del valore aggiunto dell'export entro i suoi 60 km, eccetera, eccetera. Ebbene, la Caritas diocesana di Milano oggi ha scattato una fotografia, vi darò qualche cifra, e ripeto, stiamo parlando di Milano. A livello nazionale vi dico solo, ma lo sapete, che abbiamo 1.700.000 famiglie in povertà assoluta, che è l'indice di deprivazione vero, cioè non hanno un paniere di beni minimi per avere una vita dignitosa, significa 4.700.000 individui, ed è purtroppo un pessimo record per l'Italia. E poi anche però la povertà nel mondo, e avremo con noi gli amici di ABSI, una delle grandi fondazioni che si dà da fare nei luoghi meno fortunati del mondo per riscattare dalla mera economia di sussistenza centinaia di milioni di persone. Allora cominciamo con il Papa. Nei poveri si manifesta la presenza di Gesù, che da ricco si è fatto povero. Per questo in loro, nella loro debolezza, c'è una forza salvifica. E se agli occhi del mondo hanno poco valore, sono loro che ci aprono la via al cielo. Sono il nostro passaporto per il paradiso. Per noi è dovere evangelico prendersi cura di loro, che sono la nostra vera ricchezza, e farlo non solo dando pane, ma anche spezzando con loro il pane della parola di cui essi sono i più naturali destinatari. Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà spirituali e materiali. Allora, queste le parole del Papa ieri. Stringiamo adesso per un paio di minuti il focus della nostra osservazione e andiamo al rapporto presentato dalla Caritas diocesana di Milano sulla povertà in Italia. Ecco, il numero delle persone incontrate dalla struttura della Caritas, stiamo parlando solo di Milano, Milano città, con i tre servizi diocesiani che offrono diversi servizi diversificati da assistenza, copertura per le notti, mensa e così via da parte dei volontari della Caritas. Stiamo parlando di una rete che solo a Milano ha 54 centri di ascolto, ne ha 370 nella diocesi di Milano. Ecco, continuativamente le persone, ripeto continuativamente, al di là dei rapporti random, oltre 12.000 persone continuativamente assistite. Il 62% di stranieri, attenzione, se andiamo a vedere in questi anni che cosa è accaduto, la percentuale degli stranieri rispetto agli italiani, la percentuale degli stranieri scende, è sempre prevalenza, 62,4, però nel 2008, prima degli anni di crisi, gli italiani erano 1 su 4, adesso sono più di 1 su 3, sono il 37,6%. Quasi la metà sono, tra virgolette, in un'età che non è avanzata, sono tra i 25 e i 44 anni, oltre la metà sono disoccupati. E, di queste, le donne prevalgono sugli uomini, ma anche qui, rispetto al pre-crisi, la percentuale si è quasi equiparata oramai, mentre le donne assistite erano in stragrande maggioranza nel pre-crisi dalla Caritas a Milano, adesso siamo 56% rispetto al 43,7%. Quali sono le principali tipologie di bisogno verificate a Milano? Sicuramente ci sono le problematiche abitative, incredibile a dirsi, adesso lo so che non sarete d'accordo, ma qui bisogna capire i pesi relativi, la questione dell'immigrazione era più rilevante nel 2008 di quanto non sia adesso. Ma perché? Perché sono cresciuti altri due grandi fattori di povertà a Milano, cioè l'occupazione, legacy, mancanza di, e il reddito, legacy, mancanza di. E quindi questo, ripeto, stiamo parlando di Milano. Il lavoro, beni materiali e servizi e il sostegno alla persona sono le tre grandi categorie, 33%, 38%, 27,6%, su cui la Caritas di Milano ha dovuto assistere decine e decine di migliaia di persone. Sono queste le tre esigenze fondamentali di chi è in difficoltà e non riesce quindi ad avere o un tetto sulla testa o la certezza di mettere insieme pasti per sé e per la propria famiglia a Milano. Ecco, io non vorrei andare avanti, per così dire, perché naturalmente le slide sono molte. Mi fermo semplicemente su due altre questioni rispetto al 2008, sempre per capire dove stiamo andando, ripeto, in una delle parti più avanzate d'Italia per reddito pro capita, eccetera eccetera. Rispetto al 2008 sono aumentate le persone tornate per almeno due anni di seguito allo stesso centro della Caritas, sono più della metà, cioè significa permanenza nelle condizioni di povertà nel tempo, mentre nel 2008 capitava per 1 su 3. Adesso non è che sono recidivi questi soggetti a cui va la nostra solidarietà, semplicemente non c'è più la possibilità di uscire da questa condizione per almeno un caso su due. E ecco, fermiamoci un secondo qui, ve l'ho già detto, l'incidenza delle persone con problemi di reddito supera il 50% del totale. Se ci stringiamo a quel 37% che sono i poveri italiani assistiti dalla Caritas a Milano, quindi con un più 17% sul totale di 100 rispetto al 2008, nel loro caso il problema fondamentale è il reddito. Sono sono raddoppiati i disoccupati di lungo periodo. che a quel punto hanno problemi perché non hanno nemmeno il sostegno di un sostegno, uno strumento di sostegno al reddito universale, perché nel nostro paese, lo sapete, non ce l'abbiamo. Per quelli che stanno in povertà assoluta e nei bonus di questi anni, gli incapienti non hanno preso niente. Ecco, io mi limito a questa fotografia, ripeto, presentata stamattina dalla Caritas a Milano. Come potete immaginare, il problema è molto più rilevante in relazione al reddito pro capite nelle diverse aree italiane. Io vi ricordo che viviamo in un paese in cui la fotografia del reddito pro capite vede dei divari che sono da 12.000 euro l'anno di alcune province a 30 e rotti mila a Milano. Ecco, questo per farci capire la fotografia di cui, insomma, i capi vi ho riassunto solo alcuni estremi. Quanto può essere più grave in aree d'Italia dove il reddito pro capite ufficiale, naturalmente, che non fotografa la criminalità, e il nero, in altre parti d'Italia è poco più di un terzo, quindi non è neanche la metà, per capirci. Ecco, però non dimentichiamo che nel nostro paese abbiamo questo problema. Vedremo nel futuro se saremo capaci, invece di avere un welfare che per il 75% pensa solo agli over 65 anni, non ho detto che si sono arricchiti, ma ogni riferimento ai prepensionamenti è chiaramente voluto, sarà capace invece di raddrizzarsi un pochino nelle priorità e immaginare che chi ha molto meno e non ha un paniere di beni per una vita dignitosa dovrebbe essere una priorità. Voi che dite? A me pare di sì, comunque la pensiate sulle parole del Papa, ma in Italia abbiamo un enorme problema che riguarda quasi 5 milioni di italiani, oltre agli immigrati, ma i 4,7 milioni che sono residenti in Italia sono residenti in Italia. Allora, questo riguarda la parte nazionale. Cosa avviene all'estero? All'estero avviene una cosa che viene spesso dimenticata da molti, cioè in questi 20 anni di globalizzazione, comunque la pensiate, il numero di coloro che vivono con sotto la soglia di $1-2 al giorno, cioè neanche la sussistenza, è clamorosamente diminuito, cioè il coefficiente di Gini, tanto per usare un parametro di distribuzione del reddito nel nostro mondo, è molto migliorato negli ultimi 20 anni, come non era mai avvenuto prima. E in tutto il mondo circa 150 milioni di persone ogni anno entrano addirittura in quella che, a parità, ovviamente, quelle che si chiamano le PPP, a parità di potere d'acquisto, nel loro paese diventa classe media. Ciò malgrado, abbiamo ancora sui 7 miliardi di persone molte centinaia di milioni che non se la passano molto bene. Ecco, sto usando una gentile perifrasi. E allora ci siamo detti, facciamo una fotografia di che cosa vuol dire l'impegno concreto di chi è operativo al di là dei dibattiti politici, e quindi ci rivolgiamo ancora una volta all'AVSI. AVSI significa, in parole povere, circa 1400 persone nel mondo attive, di cui quasi 1300 sono all'estero, 2 milioni e 600 mila beneficiari diretti e quasi 8 milioni indiretti, 440 scuole nel mondo, 33 fondazioni diffuse nei continenti che si occupano di sostegno allo sviluppo, ingaggiando direttamente su programmi concreti i più poveri, 700 partner locali messi in piedi dall'AVSI italiana in giro per il mondo, eccetera, una presenza in 30 paesi con un bilancio dichiarato, certificato, ne abbiamo parlato più volte, e io ringrazio ancora una volta Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI, di essere con noi questo pomeriggio. Buonasera, buon pomeriggio. Senta Silvestri, prima di andare a vedere, perché avremo alcuni collegamenti in alcune parti del mondo dove siete attivi per spiegare i progetti in cui siete impegnati, le posso fare una domanda? Ma a proposito dei dati della povertà italiana, lei cosa pensa? Ma allora, io è chiaro, mi occupo più di povertà nei paesi in via di sviluppo, però mi sembra che dice un dato che emerge, che questa invasione straniera non c'è in Italia. Attenzione. Perché se ci fosse, i numeri direbbero che i beneficiari di questo aiuto dovrebbero aumentare gli stranieri, mentre invece dice che aumentano gli italiani. Lei lo sa che la tendenza è aumentano gli italiani perché gli stranieri ci sottraggono risorse che sarebbero gli italiani. Questo si sono convinti parecchi. Ma questo non è assolutamente dimostrato, se anche qualcuno volesse dimostrare. Quindi è vero, in Italia c'è una povertà, come i numeri li ha detti lei, poi appunto, parlando di Milano, no, mi sembra che forse negli altri paesi, in altre zone d'Italia potrebbe essere peggio. Però è vero che non c'è un'invasione straniera, perché appunto altrimenti i numeri direbbero altro. No, il problema è che in Italia abbiamo, diciamo, un problema, per così dire, di sistema pubblico, cioè abbiamo un welfare che non è concepito per i poveri, i residenti in Italia. Cioè è un mistero della fede per me, in un paese che ha molta fede, una tradizione cattolica. Però questa cosa a me proprio continua a non tornarmi. Voglio dire, nell'Italia pre-repubblicana addirittura, ogni comune aveva il suo ECA, cioè il suo ente che era preposto esattamente a questo. È come se la Repubblica, nell'idea che nella grande esplosione economica dei redditi pro capite degli anni 60, eccetera, eccetera, la povertà fosse scomparsa e quindi alla fine bisognava lasciare i volontari. E mica è tanto vero o tanto giusto. Viva i volontari, ne abbiamo 7 milioni in Italia, però il problema, quando inizia a investire quasi 5 milioni di residenti, secondo me avrebbe bisogno di una riflessione ad hoc. Allora, intanto, visto che non è questo l'argomento del giorno, però io tenderei a non scindere, perché la povertà è intorno a noi, il mondo ha abbattuto le distanze e negli altri continenti, ma c'è anche a casa nostra. Allora, per voi le cose come si mettono in questi mesi? Ci sono luoghi nel mondo in cui, da che operavate con grande serenità, è diventata terribile la situazione, oppure è tutto più o meno ordinaria amministrazione rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti? No, sicuramente, allora, ci sono dei, purtroppo è fatto di ombre e luci. Ci sono dei paesi in Africa, perché poi alla fine i numeri dicono che il problema è concentrato nell'Africa, è il problema, perché chi esce dalla povertà, dei numeri che ha detto lei, è soprattutto il Far East, la Cina, l'India, quindi il problema è l'Africa. Allora, ci sono situazioni in Africa dove ci sono tassi di sviluppo molto elevato, sto parlando di paesi come il Ghana, come l'Uganda, ma ci sono invece situazioni dove invece sta peggiorando, dovute a situazioni di guerra, penso al Sud Sudan, penso al Congo, penso alla Somalia, posti dove noi siamo impegnati. Allora, lì la situazione sta peggiorando, se facciamo il paragone con 20 anni fa, forse è peggiorata. Allora, bisogna cercare di portare avanti questi paesi che stanno rimanendo indietro. E noi, quello che noi continuiamo a dire è che l'aspetto fondamentale è quello di investire sulle persone. Infatti, se posso permettermi una piccola correzione a quello che lei diceva, il Papa ha parlato di giornata mondiale dei poveri. Dei poveri, sì. Non della povertà. Sì, sì, ha ragione. Perché il Papa parla di persone. Di persone, aveva profondamente ragione. Dice bisogna incontrarli, bisogna guardarli negli occhi, cioè ci vuole un rapporto, cioè non parla di una categoria sociologica, parla di persone, quello che ci interessa anche a noi, sono le persone. Che anche, se mi posso permettere di dire un altro sfrondone, una definizione che identifica, se vogliamo, uno strumento diverso dal tradizionale, quanto diamo in percentuale di aiuti ai governi corrotti, che nelle cui tasche poi restano, il problema è invece di progetti che guardano le persone in faccia. Guardano le persone fatte e soprattutto bisogna esserci, bisogna stare lì, perché il problema oggi, io appunto, questo messaggio del Papa mi ha fatto molto piacere, appunto perché dice amiamo con i fatti e non con le parole, è che tutti parlano, ma poi dopo lì a fare i fatti non è che siamo tantissimi, non c'è sta folla. Cioè lei, in tanti anni che se ne occupa, cosa ha verificato? Un aumento del numero di coloro che se ne occupano, una diminuzione o una stasi? Sempre lo stesso numero più o meno? No. Ho verificato sicuramente un aumento del numero di persone che ne parlano, spesso anche a sproposito, questo sicuramente, grandi piani, grandi programmi, gli obiettivi del millennio, tutte cose giustissime, per l'amor di Dio, far crescere una coscienza di queste cose ci vuole, fondamentale, ma poi bisogna stare lì, bisogna stare come diciamo noi con i piedi nel fango, stare tutti i giorni con queste persone, guardarle in faccia, provare con loro a trovare delle soluzioni ai problemi che non sono semplici e che non sono sempre uguali e quindi farle crescere, perché noi riteniamo appunto che l'educazione sia fondamentale, l'educazione, la formazione delle persone, la loro crescita umana, professionale e culturale, perché questo può cambiare e fare la differenza. Ma perché io in mente casi, aspetti un secondo, di persone accompagnate negli anni che appunto sono arrivate a studiare, a laurearsi, a crescere e oggi lavorano con noi e noi l'abbiamo presa che erano dei bambini, diciamo così. Ma per chi è a casa e sente ogni tanto delle roboanti conferenze con impegnativissimi obiettivi mondiali, io mi metto nei loro panni. Io credo che molti siano diventati scettici e magari girano quando sentono. Per esempio, faccio un esempio. Ma gli obiettivi dell'orizzonte 2030, quelli si chiamano obiettivi di sviluppo sostenibile, Nazioni Unite e compagnia, quel tipo di pianificazione e strumentazione ha un senso concreto o restano poi dichiarati e poi la realtà è tutt'altra? Ma gli obiettivi in sé non è che siano sbagliati, dicono delle cose quasi lappalissiane. Chi direbbe no al fatto che tutti abbiano un'istruzione adeguata, che tutti abbiano diritto alla salute, che tutti abbiano diritto a una casa? Chi è contrario? Nessuno. Dicono delle cose assolutamente giuste, evidenti, per alcuni versi banali. Il problema è cosa facciamo per renderli possibili e come lo facciamo. Questo è il problema. E chi lo fa? Per cui va benissimo dichiararli, ma poi forse ci vuole un po' più di attenzione e un po' più di risorse dedicate alla modalità operativa su come farlo. Perché poi dopo ci troviamo, ne discutiamo, diciamo che sono un impegno per tutti, ma poi l'azione la lasciamo delegata spesso solo agli stati o alle politiche degli stati, che devono esserci, ma spesso sappiamo cosa vuol dire questo in Africa, vuol dire nulla. In nulla. Invece ci vorrebbe un'azione molto più concreta, perché poi questi obiettivi si dettagliano in cose minute, perché poi dire che in quel paese tutti devono andare a scuola vuol dire costruire le scuole, trovare gli insegnanti, formarli, mandare i bambini a scuola, far sì che i genitori li mandino a scuola e non li usino per andare a guardare le pecore o le capre, eccetera, eccetera. Cioè, il fatto di dire mandiamo tutti a scuola, va bene, siamo d'accordo, ma poi questo si deve concretizzare in tante piccole azioni, altrimenti okay, rimane un discorso. Allora, intanto adesso abbiamo un po' di pubblicità e l'interruzione che ci informa sulla borsa e poi torniamo con Giampaolo Silvestri e sentiremo il responsabile dei progetti APSI, ci collegheremo con Edoardo Tagliani che è responsabile in Medio Oriente e con Andrea Bianchesi che è responsabile in Kenya. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qua, in occasione della giornata dei poveri di ieri, celebrata dalla Chiesa indetta dal Papa. Qualche numero, siamo partiti con un po' di numeri sui poveri in Italia e a Milano. Abbiamo fotografato la realtà di Milano perché c'era il rapporto stamattina della Caritas, ma per farvi capire quanto poi è più grande e moltiplicato in Italia, con il fenomeno della povertà italiana, tra virgolette, sottolineo quattro volte, ed è con noi, lo avete sentito prima, Giampaolo Silvestri, segretario generale di APSI, ma ci ha raggiunto telefonicamente il responsabile dei progetti di APSI in Medio Oriente, che sta a Beirut, Edoardo Tagliani. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, lì l'area che lei segue naturalmente significa Siria, Iraq, Libano, Giordania. Io le chiederei di dirci un pochino, visto che l'epicentro del disastro, come se non fosse bastato quello dell'Iraq, è stata la Siria in tutti questi anni. Ma diciamo così, la lotta proceduta per diminuire i territori controllati dall'ISIS e questa specie di accordo, non accordo, che c'è tra Stati Uniti, Russia, cioè, in realtà per i siriani, e dove siete voi, che cosa vuol dire rispetto al fenomeno di un paese che ha visto milioni di persone allontanarsi tra Giordania, Turchia e verso poi anche la direttrice europea? Al momento vuol dire poco, forse quasi nulla. Non entro nel dettaglio della politica, no, perché certo, non posso. No, per quello che fate voi. Esatto, i profughi sono ancora lì, esattamente dove stavano prima. Stanno tutti alla finestra, aspettano di vedere che cosa capita, perché la guerra non è solo fatta di missili e case distrutte. La guerra demolisce un tessuto sociale, mi spiego meglio, torni ma torni dove e torni essendo vicino di casa di chi? Cioè quello che la guerra veramente distrugge sono le relazioni sociali tra le persone. Io torno nella mia città, forse la mia casa non l'ha toccata nessuno, o forse l'hanno bruciata, saccheggiata, la dovrò rimettere a posto. Però chi abita vicino a me dopo? No, e soprattutto stiamo parlando anche di persone in cui milioni, cioè voglio dire, solo quelli che sono nati in Libano e in Giordania sono più di 2 milioni, quindi stiamo parlando anche di problemi che si sono accentrati in quei paesi che pure ne hanno parecchi. Vediamo cosa sta succedendo in Libano per via della tensione che è emergente nell'area, visto gli sviluppi ultimi sauditi e il fatto che Teheran oramai ha un proprio corridoio attraverso quello che è successo in Siria con Hezbollah che arriva fino al mare. Però significa milioni di persone che attualmente non è che sono rientrate, hanno creato e moltiplicato problemi in paesi già sufficientemente instabili dove sono andati, e non si tratta di paesi che avessero chissà quali risorse da mettere a loro disposizione. A questo proposito ne approfitto per fare una domanda proprio su questo con Giampaolo Silvestri, perché poi tra poco ci deve lasciare. Ma quando ci sono sviluppi come quelli tragici in corso in Siria in questi anni, l'azione di chi fa cooperazione come voi in tutti questi paesi, che fa? Si traguarda con quello che poi avviene dal punto di vista politico e militare, la Farnesina vi dà un ombrello eccetera eccetera, o in realtà siete lì, fate il possibile e la politica per voi non c'è tempo e non c'è modo, Silvestri? No, noi proviamo a fare il possibile, dipende dalle situazioni. È chiaro che il rapporto per noi col Ministero Affari Esteri è importante e fondamentale, però dobbiamo anche, non possiamo nemmeno sovrapporci. Loro rappresentano lo Stato italiano che ha certi interessi, certi obiettivi. Noi rappresentiamo un'organizzazione comunque privata di volontari che rappresenta un certo mondo e quant'altro. Quindi noi non vogliamo essere la longa manus. Esatto. Siete un'altra italiano. Cosa, siete non un'altra ci teniamo, cosa. Siete un'altra cosa. Poi è chiaro che siamo italiani, rappresentiamo la certo. Italia e non possiamo, questo non possiamo, come dire, negarlo, però non siamo lo Stato, non vogliamo nemmeno essere, perché ci sono anche organizzazioni che fanno questo, certo. Agiscono come privati, ma poi rappresentano che in realtà sono come dei contractor, ecco. Privati da questo punto di vista. No, ma teniamo alla nostra giusta distinzione. Volevo chiarirlo perché è un aspetto fondamentale. Intanto grazie Silvestri di essere stato con noi fino a questo momento, perché io torno con Edoardo Tagliani proprio su questo punto, perché io immagino che in queste condizioni operare, voi per esempio siete a Erbil, quindi in un'area che è stata proprio occupata dall'ISIS, ricontesa, battagliatissima perché l'ISIS tornasse indietro e così via, cioè state operate anche in alcuni degli epicentri più terribili di quello che è avvenuto. Ecco, lì com'è possibile dare un supporto alla popolazione malgrado tutto questo? Si ignora la guerra. Io sono solito dire che bisogna imparare a vivere in guerra. Io sono tanti anni che faccio questo mestiere. Quando la guerra si guarda in TV, qualcuno ogni tanto pensa che si possa schiacciare il tasto pausa, cioè comincia la guerra, io metto la mia vita in pausa e poi rischiaccio il tasto play quando la guerra finisce. Però se una guerra dura come quella siriana 7 anni o come in tanti anni che ho vissuto in Africa, 15, l'est del Congo, non si può mettere il tasto pausa, bisogna crescere, andare a scuola, bisogna innamorarsi, sposarsi, fare figli, insomma vivere in guerra. È una cosa che tecnicamente si chiama resilienza. Si chiama resilienza, sì. E bisogna capire come fare a vivere in guerra. Posso fare una domanda sciocca? Però deve capire che per molti a caso che ci ascoltano dall'automobile sono domande magari che non è affatto non hanno risposte scontate. Che cosa porta dei volontari a operare nelle condizioni che lei ci sta descrivendo, cioè a dire malgrado la guerra tentare di mettere in piedi scuole per i ragazzi, formazione per dare un mestiere ai ragazzi nel frattempo che gli anni passano e loro poi diventano più grandi, avranno pure bisogno di lavorare, si spera un giorno, asili per i piccoli, ospedali per i malati? Che cos'è che porta a doversi esporre in quel momento? Che cos'è? Una missione umana, civile, la fede, che cosa? Ah no, io posso risponderle solo per me, sì. Non per tutti gli altri. A me porta l'egoismo. L'egoismo? Io sono un egoista pazzesco, e ogni giorno della mia vita vedo delle cose meravigliose o bruttissime, imparo, incontro gente, parlo con quella gente e come dire, mi sveglio al mattino contento, anche se magari di notte capita di fare dei brutti sogni, però in realtà quello che mi spinge è il fatto che cresco io, che piace a me. Non vorrei sembrare troppo cinico. No, certo, certo è singolare, uno si aspetta molto di diverso magari dalle risposte a seconda della declinazione dei caratteri, delle convinzioni di ciascuno, ma devo ammettere che mi ha lasciato abbastanza stupito la risposta che lei ci ha sillabato all'inizio, egoismo, perché mi aspetterei, non so come dire, mi faccio molta fatica a vederlo, ecco, nella parte dell'egoista, ecco, proprio molta fatica, molta. E invece secondo me alla fine, se sei un po' egoista, lavori meglio. Questo non lo metto in dubbio, però mi ha messo in crisi, a dire la verità. Spero che faccia lo stesso effetto a chi ci ascolta, perché naturalmente andate a vedere, se volete o potete, chiunque quanto può donare per queste cose. Stiamo parlando di progetti operativi, non stiamo parlando di soldi, mandati, stiamo parlando di progetti operativi, scuole, asili. Andate a vedere sul sito dell'APSI, l'assistenza a distanza si può fare in questa maniera, ma con gente che di mestiere fa questo, ragiona per obiettivi, li fa avanzare progetti, viene giudicato per come li realizza, e quindi per me è una maniera molto molto molto concreta. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il responsabile dei progetti AVSI in Kenya, che si chiama Andrea Bianchessi. Grazie di essere con noi, Bianchessi. Sì, buonasera, grazie a lei. Kenya, certo, non stiamo parlando della Siria, non stiamo parlando dell'Iraq, del Libano, della Giordania. Però stiamo parlando di un paese che ha una gravissima instabilità politica, siamo arrivati alla conferma delle elezioni, insomma, di Kenyatta da pochissimo, un paese che rappresentava e rappresenta un po' una punta della crescita, della solidità per certi versi di un percorso di uscita, no? Dal sottosviluppo africano, poi è andato incontro a questa instabilità, cioè, malgrado c'è una percentuale di popolazione in povertà, dica lei di quanto, insomma. Sì, sì, del 50%, ecco, del 50% della popolazione sotto la soglia di povertà. Malgrado questo sviluppo, che rispetto ad altre parti dell'Africa sia stato molto, insomma, molto più rilevante e anche di una certa continuità, cos'è che non funziona? I meccanismi di redistribuzione? In parte questo, perché come ha detto lei, il Kenya è il paese di riferimento per l'Africa orientale. Negli ultimi 10 anni è cresciuto del 6% il PIL. Molte multinazionali mettono la sede qui a Nairobi per controllare la regione. Dal porto di Mombasa arrivano le merci per poi il centro Africa. In questa situazione sì, c'è stata una crescita solo di una parte della popolazione, seppur la classe media, almeno urbana, a Nairobi sta crescendo, ma questo non raggiunge tutta la popolazione. Ma cioè stiamo parlando ancora, cioè per i bambini, andare a scuola, quanti ancora non ci vanno regolarmente, più o meno? Sì, in Kenya ci sono 2 milioni di bambini che non vanno a scuola, una popolazione totale di 47 milioni, 2 milioni in Kenya, 1,5 milioni di giovani ogni anno deve entrare nel mercato del lavoro. Mercato del lavoro dove ci sono solo 4 milioni di persone che hanno un contratto di lavoro, che sono nella cosiddetta economia formale, il resto nell'economia informale, cioè che lavora oggi perché trova la possibilità di lavorare come operaio e domani non lo trova, o se domani si fa male non ha i soldi per andare all'ospedale, che non ha un'assicurazione sociale. Vuol dire questo. Oppure un altro dato che forse non si sa bene in Italia, ma appunto qui in Kenya ci sono 500.000 profughi, in Uganda ci sono 1,5 milioni di profughi, cioè in tutti questi paesi ospitano l'80% dei profughi al mondo. Profughi sono accolti da questi paesi qua. qui in Kenya c'è un campo profughi, il campo di Dadaab, dove ci sono 250.000 persone. È stato aperto nel 1992, dopo la guerra civile che è scoppiata in Somalia. Purtroppo la situazione in Somalia non si è ancora risolta, quindi sono ancora lì. Nel nord del Kenya abbiamo un altro campo con 200.000 persone, aperto nel 1993, per accogliere i sudanesi e adesso i sudanesi. Quindi più di 15 anni fa. E immagino che le risorse che lo Stato kenyota possa riservare a questi campi non siano proprio quelle più adeguate per coprirne i bisogni, no? Certo. No, poi questi sono... sono sostenuti dalla cooperazione internazionale, questi in modo completo, cioè lo Stato assegna alle Nazioni Unite un pezzo di terra e dice adesso occupatene voi. Qui ci pensate voi. Allora, torniamo con i nostri due ospiti e ogni tanto però fa bene secondo me avere anche una visione di cosa succede nel mondo. Io lo so che vedo i messaggi, dite ma no, ma come l'Italia, la politica, però... Guardate che non, secondo me è molto utile, cioè ogni tanto contestualizzare che cosa avviene, perché poi spiega anche quello che per molti di voi invece è un fenomeno che non ha di queste radici mondiali, perché vengono poi di là i profughi che vengono qua disperati. Adesso abbiamo però l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. E intanto Breaking News, Milano ha passato il primo turno alle votazioni segrete, il primo dei tre round previsti delle votazioni segrete col complesso meccanismo per cui il Consiglio degli Affari Generali dell'Unione Europea sta votando da stamattina la scelta per l'assegnazione dell'Agenzia Europea del Farmaco. Milano ha superato il primo round. Anche però altre temibili concorrenti come Amsterdam e Copenaghen. Inizierà tra poco il secondo round, vedremo. Ma intanto Milano ha superato il primo. Torniamo con i nostri due ospiti, sono collegati con noi Edoardo Tagliani, che è responsabile progetto APSI in Medio Oriente, e Andrea Bianchessi, che è responsabile APSI in Kenya. Bianchessi, può spiegare in pochi secondi, mi rendo conto che è ridicolo, ma però a chi non ha mai sentito parlare di Kibera vicino Nairobi, che cos'è questo slam? Cioè, dovesse descriverlo a chi ci ascolta, che cos'è? Una bidonville, una baraccopoli con piena di casette, una attaccato all'altro, dove 7-8 persone vivono in una camera, 4 metri per 3, e queste casette non hanno il bagno, ci sono dei bagni pubblici, devono quindi uscire, devono pagare per andare al bagno, per andare alla toilette, per fare la doccia. Lì non c'è pavimento, è di terra. E quante persone ci sono? Devono buttare per terra qualcosa, una specie di materasso, sì. Però quando piove l'acqua entra dappertutto. Per cui quando piove, nel mezzo della notte, si devono alzare e stare in piedi, aspettando che l'acqua passi, defluisca sul pavimento e così. E qui ci abitano, adesso le statistiche variano, almeno 500.000 persone. 500.000 persone. 500.000 persone. E si percorrono queste viuzze, questi sentierini, che quando piove sono un disastro, pieno di fango. Allora, io ringrazio chi tenta di portare lì scuola, progetti di formazione, siamo ai bisogni primari lì, come avete capito, però ripeto, è bene saperlo che c'è gente che passa la vita a fare queste cose, secondo me sono dei benemeriti dell'umanità. Ma io voglio tornare un secondo da Tagliani per fargli una domanda. Edoardo Tagliani, nei rapporti con il volontariato che magari risponde a fedi religiose diverse, stiamo parlando come ovvio della cooperazione e della solidarietà messa in piedi da organizzazioni musulmane, c'è qualche problema nell'area del Medio Oriente in cui operate anche voi, Siria, Iraq, eccetera, oppure per chi fa cooperazione e aiuto chi sta peggio questi problemi poi si superano? Si superano per forza e per mestiere. Potrei farle una miriade di esempi. Per esempio, noi adesso in Siria stiamo lavorando con 3 ospedali, che sono 3 ospedali cristiani, privati, no profit, e offriamo cure gratuite alla popolazione siriana. I pazienti, cioè la percentuale dei pazienti rispetta esattamente la percentuale della popolazione. Quindi la stragrande maggioranza sono ovviamente musulmani, non è che vi mettete 97%. A guardare. 97% appunto, no, ma io di questo ero certo, ma volevo che lo dicesse perché chi è in ascolto capisca che chi si dà da fare per l'umanità non ragiona per divisioni, ma per tentare di moltiplicare quel poco, ma molto significativo che si fa comunque. Allora, grazie a tutti gli uomini e le donne dell'Apsi, a tutti i loro volontari e cooperatori e a tutti i volontari italiani, che sono comunque milioni. Oggi una puntata un po' diversa, continuate con Focus Economia, Simone Spezia, Germania, EBA, banche, e poi vedrete, c'è anche un po' di NIMBY. Continuate sulla 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con me, Luca Trelesi, a 24 mattino.